TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Dentro lo stadio l'Italia vince contro Israele 3-0, ma fuori scoppia l'inferno. Ieri sera scontri, feriti, arresti tra i manifestanti violenti, agenti finiti al pronto soccorso, due giornalisti feriti, tra cui una collega di Rai News 24. È in corso la conferenza stampa in questura. Condanna bipartisan dopo gli scontri di Udine. Tajani parla di violenza inaccettabile e cita l'impegno del governo contro l'antisemitismo. Il sindaco De Toni promette una ferma reazione istituzionale mentre crescono solidarietà e preoccupazione per i giornalisti aggrediti. Due tragici incidenti sulle strade in meno di due ore stamane. Una ragazza di 18 anni investita mentre andava a scuola a Monfalcone, gravissima, ricoverata in rianimazione a Cattinara. Alle 10 investito a Mariano del Friuli un uomo di 52 anni di Villesse è morto nell'impatto violentissimo. Lui a bordo di uno scooter, a sorprenderlo un'auto. Povertà in crescita in Italia, ma il Friuli Venezia Giulia resiste abbastanza. Il 5,4% delle famiglie è in povertà relativa, secondo l'IRES, l'incidenza tra le più basse in Italia. Università di Trieste, boom di matricolazioni, più 13% in un anno, open day autunnale tra tour guidati e aule affollate di studenti. Cresce l'interesse per i corsi umanistici e medico-sanitari. Pordenone, capitale del legno arredo, con l'apertura del SICAM, il Salone Internazionale della Componentistica per il Mobile, attese 9.500 aziende da 120 paesi in un'edizione da tutto esaurito tra sfide globali e richieste di sostegno al settore. Cinema, fidarsi del proprio intuito, seguire la propria strada, così alla TGR la giovanissima attrice slovena Yara Sofia Ostan, protagonista della Ragazza del Coro, film prodotto e girato in Friuli, che guarda all'Oscar. Lo sport, il Pala Trieste riabbraccia l'Europa, stasera alle 21 il ritorno in Champions League. Pallacanestro Trieste sfida in casa il Galatasaray, corazzata turca e finalista della scorsa stagione. Buongiorno da Andrea Marussi, c'è Anna Vitaliani in studio per questa seconda edizione del GR regionale della RAI, scene di guerriglia urbana. Dunque, ieri sera a Udine, mentre l'Italia giocava allo Stadio Friuli contro Israele, il corteo pro-Palestina è iniziato calmo, nel pomeriggio si è poi trasformato all'arrivo in piazza Primo Maggio e lì si è scatenato l'inferno. Un gruppo di facinorosi ha tentato di sfondare il cordone di polizia per dirigersi verosimilmente verso lo stadio. Sono arrivati gli idranti e rinforzi, i facinorosi hanno lanciato oggetti verso la polizia, sassi, pali, transenne. Le forze dell'ordine hanno risposto avanzando grazie a cannoni d'acqua e lanciando lacrimogeni. Le manette sono scattate subito per alcuni di loro, si contano anche i feriti, tra cui due giornalisti e anche una nostra collega di Rai News 24, Elisa Dossi. Per fare il punto su quanto accaduto ieri sera, il questore di Udine Pasquale Antonio De Lorenzo ha indetto una conferenza stampa che è iniziata proprio pochi minuti fa. Sentiamo il collega sul posto. 13 fermati e 2 arrestati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Questo è il bilancio della serata di guerriglia urbana per le vie del centro di Udine al termine della manifestazione di protesta contro la partita Italia-Israele. Quanto allo stadio, 3 indagati per invasione di campo nel corso della partita. Lo ha comunicato il questore di Udine, Pasquale Antonio De Lorenzo, che ha ringraziato le forze dell'ordine impegnate nel corso di un incontro con la stampa. Le 15 persone portate in questura ieri sera sono tutti cittadini comunitari, 9 uomini e 6 donne. È messo nei loro confronti il foglio di via dalla città. 2 di questi sono stati tratti in arresto. Il primo per danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale è stato portato in carcere questa mattina. Arresti domiciliari per il secondo, sempre per resistenza pubblico ufficiale. Per i servizi di ordine e sicurezza dall'11 al 15 ottobre sono stati impiegati circa 3.000 uomini, di cui oltre 1.100 nel solo giorno gara. Il corteo, presenze stimate dalla questura, è circa 8-9.000 persone, gli organizzatori parlavano di 15.000, si è svolto senza incidenti fino a piazza Primo Maggio. Mentre la maggior parte dei manifestanti si è concentrata nell'area verde dell'Ellisse, un gruppo di circa 200-300 persone ha cercato di oltrepassare il cordone di polizia sul Largo delle Grazie, bloccato senza uso della forza dal servizio d'ordine della manifestazione. Poi il tentativo di aggiramento di forzare il blocco dei reparti antisommossa. Massiccio il lancio di oggetti e petardi. Il personale di polizia è riuscito a far arretrare i manifestanti senza contatto fisico tramite idranti e il lancio di 150 lacrimogeni. Feriti anche 2 giornalisti, la collega di Rai News Elisa Dossi e un operatore di Local Team che ha riportato una vistosa ferita sotto l'occhio sinistro. 11 feriti del personale delle forze dell'ordine, 6 poliziotti medicati al pronto soccorso di Udine, uno dei quali con ferita lacero contusa da bomba carta, altri 4 agenti all'ospedale di Latisana. Un carabiniere è medicato su strada per lievi escoriazioni, altri lievemente contusi. Nel corso della partita segnalate circa 10 violazioni al regolamento dello stadio per aver esposto la bandiera della Palestina e denunciati due uomini e una donna. I due uomini hanno effettuato un'invasione di campo nel corso del match, prontamente bloccati dagli steward, mentre la donna, dopo aver invaso il campo da gioco, inveiva con violenza nei confronti del personale di polizia ed è stata denunciata per resistenza pubblico ufficiale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Una sola voce di condanna da parte delle istituzioni, della politica, delle sigle che rappresentano le forze dell'ordine e dal mondo dell'informazione. Nella tarda serata di ieri le reazioni di sdegno e condanna per la guariglia portata nel cuore di Udine dal manipolo di Facino Rosi, staccatosi dalla manifestazione. Arriva dal ministro degli esteri Antonio Tajani l'ultima condanna della violenza scoppiata ieri sera a Udine, con le forze dell'ordine costrette a fronteggiare il tentativo di sfondamento della frangia violenta e minoritaria della manifestazione per la Palestina, mentre al Friuli si giocava la contestata partita Italia-Israele. Da Montecitorio cita l'antisemitismo. Il governo si impegna solennemente a fermarlo, dice all'aula. Un assurdo che va contro i fatti che la storia sta disegnando per Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Udine ripudia con forza la violenza che ha attraversato le sue strade. La voce del sindaco De Toni si farà sentire ancora oggi da Palazzo d'Aronco per una conta dei danni e una nuova condanna delle scene vergognose, le ha definite, che hanno tradito i messaggi della mobilitazione. Solidarietà alle forze dell'ordine e ai giornalisti feriti dal presidente della regione Fedriga. Vanno identificati e perseguiti, afferma il capogruppo del PD in Consiglio regionale Diego Moretti, esprimendo solidarietà alle forze dell'ordine, ai giornalisti e invitando a non equiparare i violenti a persone scese in piazza pacificamente. Dure parole dalle sigle che rappresentano le forze dell'ordine e da quelle dei professionisti dell'informazione. La sostampa del Friuli Venezia Giulia ricorda come siano stati 81 i casi di violenze e intimidazioni contro i giornalisti solo nei primi 6 mesi dell'anno, un aumento del 76% rispetto ai 46 di un anno fa, con una netta preponderanza di episodi di matrice sociopolitica. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. Con una nota stampa anche il commento di Emiliano Giareghi, segretario generale della CGIL di Udine, che dice: esprimo la solidarietà e il ringraziamento della CGIL ai lavoratori delle forze dell'ordine e dell'informazione, in particolare a chi è rimasto ferito durante il corteo di ieri. Gravi episodi di violenza compiuti da una minoranza, ha detto, non possono oscurare il comportamento civile delle migliaia di persone che hanno sfilato in modo ordinato e responsabile. Purtroppo mattinata nera sulle strade della regione, a meno di 2 ore di distanza e a pochi chilometri l'uno dall'altro, 2 incidenti gravissimi. A perdere la vita a bordo del suo scooter un uomo di 52 anni di Villesse è stato travolto da un'utilitaria a Mariano. Lo scooter ha diretto verso Gradisca, mentre l'auto a bordo della quale viaggiavano 2 cittadini di nazionalità bengalese si dirigeva nella direzione opposta verso il centro cittadino. L'impatto è stato violentissimo, lo scooterista è morto sul colpo. Arrivato negli soccorsi, purtroppo dovuto ripartire vuoto. Rallentamenti al traffico lungo la strada che collega Gradisca a Udine. E stamane alle 8 del mattino sulla strada di scuola è stata investita una ragazza di soli 18 anni, è successo a Monfalcone, ora la ragazza è in fin di vita, ricoverata in rianimazione a Cattinara alla guida dell'auto, un ragazzo di 30 anni che è stato fermato. Sentiamo. Ha 18 anni, ne compie 19 il mese prossimo la ragazza investita questa mattina in via Eugenio Valentini davanti all'istituto scolastico in cui stava per entrare per iniziare la giornata di lezioni all'ISIS Pertini di Monfalcone. Mancava poco alle 8 della mattina, la giovane stava attraversando le strisce tra le fermate dei bus della sede della sua scuola quando viene investita da un'auto. Al volante c'è un uomo di 30 anni che si è fermato. Immediata la richiesta di aiuto e di soccorso, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Speranzano oltre al personale medico sanitario del 118. La giovane viene in un primo momento trasportata all'ospedale San Polo di Monfalcone, poi, viste le sue condizioni gravi, la decisione di trasferirla d'urgenza a Trieste, all'ospedale di Cattinara, dove viene sottoposta in questi minuti in sala operatoria a un delicato intervento chirurgico. Secondo le nostre informazioni, la 18enne nell'impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico. Da chiarire ancora i dettagli dell'incidente, in particolare lo stato in cui l'investitore si trovava alla guida del suo veicolo. Monfalcone, Lorenzo Gherlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Solo la reciproca conoscenza e la collaborazione allontanano la paura dell'altro, un concetto questo sottolineato convintamente dal sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna al Parlamento europeo a Bruxelles in occasione delle celebrazioni del 40° anniversario degli accordi di Schengen. Il primo cittadino è stato invitato a parlare per portare la propria esperienza diretta insieme al collega sloveno di Nova Gorizia, Samo Turel, alla luce della Capitale Europea della Cultura 2025, la prima transfrontaliera. Nel suo intervento ha ripercorso la storia del territorio con un confine oggi esemplare, laboratorio di pace e di amicizia. Friuli Venezia Giulia tra le regioni più virtuose sul fronte della povertà, lo certificano i dati Istat e Ires. Nel 2024 il 5,4% delle famiglie risulta in povertà relativa contro l'8,4% della media nazionale. Il Friuli Venezia Giulia è quinto in Italia dopo Valle d'Aosta, Trentino, Veneto e Toscana per minore incidenza dal disagio economico. In un paese dove il rischio povertà assoluta o relativa per individui e famiglie numerose è sempre più alto, il Friuli Venezia Giulia se la passa meglio. Secondo il report dell'Istat, l'8,4% della popolazione nazionale e il 9,8% dei residenti è indigente, con il 10,9% di povertà relativa, mentre in regione questo dato è tra i migliori. Quinta regione dopo Valle d'Aosta, Trentino, Veneto e Toscana. Secondo l'IRES, la misura di povertà relativa definita rispetto allo standard medio della popolazione è legata alla disuguaglianza nella distribuzione della spesa per i consumi. Viene infatti definita povera una famiglia di due componenti con una spesa per consumi inferiore o pari alla spesa media per consumi pro capite. Per famiglie di diversa ampiezza viene utilizzata una scala di equivalenza che tiene conto dei differenti bisogni e delle economie e diseconomie di scala che è possibile realizzare in famiglie di maggiore o minore ampiezza. Nel 2024 la soglia di povertà relativa familiare era pari a 1.218 euro mensili per una famiglia di due componenti. In Friuli Venezia Giulia nel 2024 risultava in povertà relativa il 5,4% delle famiglie contro il 5,6% medio registrato al nord-est. Alessandro Russo, Centro Studi IRES. E gli stranieri sono quelli a maggior rischio di povertà, con maggior difficoltà economica, le famiglie con stranieri. La povertà è legata all'età. I giovani e le famiglie con minori hanno dei tassi di povertà stimati più alti. Mentre, questo un po' ci favorisce come Friuli Venezia Giulia, le fasce di età più elevate se la passano un po' meglio dal punto di vista economico. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Pordenone ha aperto il SICAM, il grande salone internazionale dei componenti per il mobile, in un momento delicato del settore legno arredo, fiera al completo, 9.500 aziende attese da 120 paesi. Si è aperto in un momento di incertezze per il settore del legno arredo il grande salone dei componenti, semilavorati e accessori per l'industria del mobile SICAM in fiera a Pordenone, in programma fino al 17 ottobre. L'organizzatrice Carolina Giobbi. Siamo una fiera ormai consolidata, è il secondo anno che riempiamo completamente tutto il quartiere di Fiera Pordenone con le migliori aziende di componentistica. Ci attendiamo circa 9.500 aziende da 120 paesi del mondo. Oltre all'Italia, i principali arrivi sono da Germania, Spagna, Cina, con delegazioni anche da Stati Uniti e Ucraina. Tra gli addetti ai lavori, le preoccupazioni legate ai dazi, evoluzioni delle normative europee e importazioni cinesi. Alessandro Fantoni è direttore commerciale dell'azienda Fantoni e capogruppo legno arredo di Confindustria Udine. Da una parte chiediamo aiuto alle istituzioni politiche per cercare di arginare quelle che possono essere le conseguenze delle ondate di importazione di prodotti cinesi e di semplificare in particolar modo tutte quelle che sono le burocrazie legate alle normative, che possono anche portare a delle problematiche rispetto alla sopravvivenza di alcune piccole e medie industrie del territorio. In città si segnalano rallentamenti e code. Per tutta la durata della manifestazione il Comune propone Enjoy with SICAM, rassegna di eventi diffusi nel centro storico per far vivere ai visitatori del Salone la capitale della cultura 2027. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I consulenti del lavoro di Gorizia hanno promesso una serie di incontri per divulgare la legalità, il lavoro in sicurezza e la parità di genere. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. Spiegare le leggi e la cultura del lavoro a un pubblico di studenti e professionisti è l'obiettivo di un progetto dei consulenti del lavoro di Gorizia, organizzato nell'ambito di Go 2025. Martin Drufoca, consulente del lavoro. Il progetto porta il nome La cultura del lavoro, divulgare la legalità, il lavoro in sicurezza e la parità di genere. L'intero progetto comprende 7 eventi, una borsa di studio che l'abbiamo intitolata al compianto collega Giorgio Gratton e un bando invece rivolto elementari e medie. Temi come le buste paga, i contributi, gli adempimenti fiscali e previdenziali, le dimissioni, fondamentali per la vita di un lavoratore ma spesso poco conosciuti. Molti degli incontri dell'iniziativa sono rivolti ai ragazzi. Matteo Simeoni, consulente del lavoro. Spieghiamo praticamente cosa devono stare attenti quando iniziano il lavoro, anche una cosa che potrebbe essere elementare, che devono firmare un contratto prima di iniziare la prestazione, che la prova è successiva all'inizio del lavoro. Il progetto si accompagna a un lavoro di divulgazione nelle scuole che i consulenti di Gorizia portano avanti da anni. Soprattutto gli istituti tecnici, che magari hanno i ragazzi che sentono più il lavoro sulla pelle, ci chiedono di spiegargli il contratto di apprendistato, ad esempio il tirocinio, o comunque anche le varie tipologie che possono essere proposte ai giovani, come il contratto di lavoro a chiamata. Chiedono di spiegargli le differenze che c'è tra un contratto e l'altro. Una cosa che noi puntiamo sempre è anche il discorso della sicurezza sul lavoro. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste continua a crescere, più 13% di immatricolazioni rispetto allo scorso anno, spinte da alti tassi di occupazione post-laurea. In corso l'Open Day autunnale. Arrivano in pullman da tutte le scuole superiori del Friuli Venezia Giulia in occasione dell'Open Day autunnale dell'Università di Trieste, 3 giorni di presentazioni dei corsi di laurea triennali offerti. Da anni cresce costantemente il numero di immatricolazioni, quest'anno il 13% in più del precedente, un risultato dato anche dagli ottimi tassi di occupazione subito dopo la laurea, come ha sottolineato la rettrice Donata Vianello nell'aula magna rivolgendosi agli studenti. Un grande successo, ha detto, sono più di 15.000 le iscrizioni a questa 3 giorni di Open Day e ci dimostra che l'attività di orientamento per le scuole superiori che l'università svolge è in crescita. Investiamo tantissimo, ha detto la rettrice, perché questo influisce sulle loro scelte e sulla riduzione degli abbandoni. La delegata per la progettualità per l'orientamento, Elisabetta Madriz, ha spiegato che gli studenti cercano conferme, attendono di vedere come sarà bella questa vita universitaria senza verifiche, compiti e il fiato sul collo degli adulti, e quindi si organizzano verso una vita autonoma. Moltissime le studentesse presenti oggi, attirate dai corsi umanistici come quello di laurea per il servizio sociale, ma non solo. Impegnatissimo lo staff di orientamento con i tour guidati dell'Ateneo e un'aula per gli incontri dove sono banditi i professori. Si fa dialogo da studente a studente per mettere in gioco la propria esperienza universitaria, così da aiutare gli studenti delle superiori nella loro scelta. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono 60, 4 in più del 2024, gli studiosi dell'Università di Udine che rientrano tra il 2% di scienziati più citati al mondo, circa 200.000, cioè con maggior impatto nella produttività scientifica. E quanto emerge dall'indagine annuale World's 2% Top Scientist, elaborata dall'Università di Stanford e realizzata in collaborazione con la casa editrice Elsevier. Complessivamente gli studiosi considerati dalla ricerca sono circa 9 milioni. Le 12.48, uno sguardo al meteo, cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa, da poco nuvoloso variabile in montagna, Trieste, Udine e Gorizia e anche Pordenone 18 gradi rilevati alle 11, Tolmezzo 13 gradi e mezzo, Forni di Sopra 12, Piancavallo 10, Tarvisio 9 e mezzo, Sappada 5 e mezzo, Monte Zoncolan 6 gradi e mezzo, Monte Lussari 3 grado 18 e mezzo, Lignano 17 gradi. Le previsioni nelle prossime ore: progressivo aumento della nuvolosità a partire da nord, con possibili deboli e brevi piogge nella zona montana, specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Sulla costa e sulla fascia orientale soffierà borino o bora moderata. Domani cielo variabile al mattino, in seguito schiarite su costa, pianura e fascia orientale, dove soffierà bora moderata. E il tram di Trieste resterà fermo 2, forse anche 3 settimane. A dirlo Trieste Trasporti. La fune trainante è uscita dai rulli ed è stata lesionata. Il guasto all'impianto, accaduto proprio nel giorno della Barcolana, prevede tempi di intervento non banali. Intanto, sulla storia del tram è uscito un recente libro dal titolo Le storie intrecciate del tram di Opicina, edito dall'Associazione Culturale Tabor di Opicina. Il collegamento tra Trieste e Opicina via rotaia è nuovamente sospeso. Intanto l'Associazione Culturale Tabor di Opicina ha voluto omaggiare i 123 anni del tram, che un tempo impiegava esclusivamente tranvieri che vivevano vicino alla stazione di Opicina, con una mostra e la pubblicazione di un libro. Andrea Di Matteo, autore assieme a Dunia Sosic del libro Le storie intrecciate del tram di Opicina. Sono le storie delle persone che vi hanno lavorato, dei tranvieri. Che cosa scopriamo da queste storie? Beh, questa volta non parliamo della storia del tram, ma parliamo di chi ha fatto la storia del tram, quindi racconti di vita, storie vissute in prima persona, oppure le persone che non ci sono più, abbiamo intervistato i loro familiari che hanno raccontato aneddoti e cose simpatiche. Dunia Sosic, coautrice di queste storie intrecciate, Prepletene Sgodbe, una delle storie che l'ha colpita forse più delle altre che ha raccolto. Finalmente nel libro ci sono le donne, le due tranviere, per cui è un grande passo avanti per il tram. Un libro, una mostra, ma soprattutto c'è la volontà di fare un museo dedicato al tram di Opicina. Beh, innanzitutto Opicina avrebbe bisogno di un suo museo storico che possa raccogliere le memorie del tram e quello che ha fatto la storia della località. Quindi auspichiamo che questa mostra sia l'inizio di un percorso verso la creazione di un museo o una mostra permanente. Questo tram è veramente disgraziato, come si canta nella canzone. Beh, io non posso sfatare il mito, diciamo che un po' di sfortuna c'è, poi si è anche autoalimentata nel corso del tempo. Nada Choc, TGR Friuli Venezia Giulia. Cinema ora con un'opera prodotta e girata in Friuli Venezia Giulia, La ragazza del coro, film debutto di Urška Djukić, sarà ospite del visionario stasera alle 19:30. Un'occasione preziosa per conoscere da vicino Yara Sofia Ostan, la prossima stella del nuovo cinema europeo, la protagonista di questo film distribuito dalla Tucker Film di Udine, girato a Cividale e premiato al 75esimo Festival di Berlino con il premio Firpesci. La ragazza del coro è stato scelto come candidato della Slovenia per la selezione degli Oscar 2026 e fa parte della lista ristretta di opere candidate ufficialmente agli European Film Awards. Il film racconta la storia di Lucia, una ragazzina dall'animo particolarmente sensibile che canta nel coro di una scuola cattolica. Durante un weekend in un convento in campagna la ragazza farà i conti con la sua età, con le attrazioni e i turbamenti della sessualità in un contesto fatto di regole, silenzi e aspettative. A che età ti è venuto il ciclo, Clara? Appena fatti i 13. Invece a te? Non mi è ancora venuto. Ah. Come capisci se qualcosa ti attrae? Te ne accorgi e basta. Senti un calore. Yara Sofia Ostan, quale messaggio speri che questo film trasmetta ai tuoi coetanei? Tante che ho tratto da questo film è che bisogna seguire se stessi, quasi affidarsi alla propria intuizione. Se provi ad adeguarti a ciò che gli altri o la società si aspettano da te, allora non sei davvero sincero con te stesso. Penso che sia giusto restare sensibili, tranquilli, raccolti. Oggi tutti tendono a voler apparire energici e rumorosi e per questo per me è stato un grande sollievo capire che va bene essere come sono e seguire la mia voce interiore. Sei molto giovane, quando e come hai capito che il cinema poteva essere la tua strada? Lo desideravo da tanto tempo, già quando avevo 13 anni, era una sorta di sogno. Quando è arrivata l'occasione per questo film, che per me è stata del tutto casuale, ho iniziato a pensare che una carriera così potrebbe davvero essere possibile. Non so ancora cosa succederà, ma è qualcosa che desidero profondamente. Per te questo è stato il primo film e già il tuo paese, la Slovenia, lo propone agli Oscar di quest'anno. Come ti senti e come immagini il tuo futuro? Mi è ancora difficile immaginare cosa significhi davvero tutto questo. Spero che questo film possa dare la possibilità anche ad altre persone con un carattere simile al mio di raccontare le proprie storie. Per ora sono molto grata per tutti i traguardi che il film ha raggiunto e che abbiamo raggiunto insieme realizzandolo. Da oggi al Via Cervignano l'ottava edizione del Festival del Coraggio, accende i riflettori su un mondo in frantumi tra guerre, crisi ambientali, violenza di genere e fragilità personali. Un'edizione dal titolo simbolico rappresentata da un castello di carte sull'orlo del crollo. Siamo allo sport. Dopo oltre 20 anni il Pala Trieste torna a vestirsi d'Europa. Stasera alle 21 la Pallacanestro Trieste torna a respirare l'atmosfera delle grandi sfide internazionali nella seconda giornata di Basketball Championship League. Sul parquet biancorosso approderà una delle squadre più prestigiose del panorama europeo, il Galatasaray, finalista continentale nella scorsa stagione, simbolo di tradizione, talento e fisicità. Ciclismo, quarto posto per Daniel Schkerlin, volata al Tour of Guangxi per il 22enne di Opicina in forza alla Bahrain Victorious, è il miglior risultato della stagione da debutto tra i professionisti. E per chiudere, un appuntamento di presentazione di un nuovo libro, una nuova inchiesta storica analizza i retroscena che hanno portato alla strage di Porzus. La propone la storica Alessandra Kershevan e si intitola Porzus 1945, prove di Gladio sul confine orientale, KV Edizioni. Sarà presentata alle 18 presso il Teatro San Giorgio di Udine in via Quintino Sella. Con Alessandra Kershevan dialogherà Enrico Petris, evento in collaborazione con ANPI Provinciale di Udine. Sono le 12.55, termina qui il nostro GR che è stato redatto e condotto da Andrei Marussi, c'è Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Roberto Cavallari, in redazione ha collaborato Cristina Polselli. Grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.